Dance. With the drop being cause of all things world in the skin of the style is so sad. Devil. Dance. With the dropping cover all pain words, dance in the drop being of all things words, dance. Cerca il tuo stilo, vivilo, vibra il fisico anche qui. Se non sei, se sapevo se non esistono, ora è l'ora dell'ultimo ballo, quindi dance. Se non esistono, ora è l'ora. Ultimo ballo come sotto un cielo stellato, balla il tuo volo alato, dance. Of eternity, dancing the memory who will live. Feet by heart, this world is worth shot to love. Dance. In the name of your love, dance. The rhythm of your pen, your the dance of the dirt, vale il tuo volo alato, dance, beach, dancing all night, heaven of wind, dance of four statues of eternity, dance, this world is worth, shut too long, now dance.